Cari ascoltatori, mi chiamo Sabine Down, insegno inglese e italiano al Ruprecht Gymnasium a Monaco di Baviera. Vorrei proporvi il blog Learn Italian, impariamo l'italiano, video didattici per imparare l'italiano. Il blog è stato fondato e viene gestito da Jordi, un catalano che studia l'italiano da 3 anni. Considerando questo fatto, gli è riuscito un sito veramente degno di nota. E che cosa sono allora questi video didattici? Sono filmati di una durata di 2 o 3 minuti che vengono quasi sempre accompagnati da un esercizio di comprensione che consiste in circa 10 frasi del tipo vero o falso. Queste frasi sono classificate per ogni video secondo le solite categorie dei diversi livelli di apprendimento, vale a dire da elementare fino ad avanzato. Purtroppo mancano le soluzioni e questo rende gli esercizi poco adatti per l'autostudio. Vabbè, c'è sempre il contatto con la lingua, ma manca la possibilità di autocontrollo e di conseguenza anche l'effetto positivo di un'esperienza gratificante e della chiarezza immediata sui risultati. I contenuti dei video coprono una vasta gamma di temi: cinema, storia, salute, lingua e letteratura, arte, gastronomia, insomma tutto il mondo in filmati di pochi minuti. Gli argomenti riprendono sia eventi d'attualità che temi legati a ricorrenze importanti e collettivamente vissute. Intorno a Natale, per esempio, si trovano addirittura 3 video sull'immancabile panettone, un video sui mercatini di Natale, un altro sulla Befana e molti altri ancora. Ma ci sono anche video intitolati, per esempio, Spike Lee e la Resistenza Italiana, Italia, patria dei divieti, oppure La tecnologia digitale ci cambia la vita, e sì, anche Il seno di Monica Bellucci. In quest'ultimo troverete la risposta alla domanda se vale di più il seno di Monica Bellucci o il corpo di Valeria Marini. E nel caso in cui i vostri alunni non dovessero sapere chi sia Monica Bellucci o quale sia il significato della parola divieto, ecco qua l'aiuto immediato, si trova a portata di un clic. Sulle pagine accanto ai video, a destra, si trova tutto un elenco di dizionari ed enciclopedie online, come Wikipedia, Wikizionario e il Dizionario De Mauro. Basta inserire la parola o l'espressione sconosciuta direttamente nello spazio apposito, cliccare e appare già il lemma del dizionario scelto. Visto che un nuovo video viene pubblicato più o meno ogni giorno, ci troviamo davanti ad un numero ormai enorme di filmati. Ma la ricerca di un filmato particolare, sia secondo i diversi livelli di apprendimento, sia secondo i temi, viene facilitata dalle categorie nella colonna a destra del blog. La scelta di video, però, non si esaurisce nei video didattici. Oltre a questi ultimi, troviamo anche una pagina con video di contenuto storico e un'altra pagina con videoclip. Questi videoclip sono filmati con canzoni italiane, si trovano praticamente tutti i cantautori e cantanti italiani, da Angelo Branduardi a Zucchero. Invece degli esercizi vero-falso, però, i videoclip vengono spesso accompagnati dal testo della relativa canzone. I video a contenuto storico che ho appena menzionato sono, salvo pochi video, le registrazioni della striscia quotidiana Un minuto di storia, che per anni è stato in onda la mattina sulle reti della RAI. Come attore e regista di questi filmati firma Gianni Bisiak, il Guido Knopp italiano. I video, che durano anch'essi dai 2 ai 3 minuti, riguardano un preciso fatto storico e comprendono molti eventi importanti della storia italiana e mondiale del Novecento. Questi filmati storici, però, non hanno dei rispettivi esercizi di comprensione. Ciò nonostante sono, secondo me, una fonte preziosissima per le lezioni di italiano a livello medio avanzato e avanzato. Adesso che vi ho dato le informazioni essenziali riguardo al contenuto del blog, alcuni o forse anche parecchi di voi si chiederanno: e che cosa me ne faccio di questi filmattini che durano dai 2 ai 3 minuti in una lezione di italiano? Vale la pena prenotare l'aula apposita o trasportare laptop e beamer attraverso i corridoi della scuola, per non parlare di altri ostacoli di natura tecnica, per poi guardare un paio di minuti di film? Se non siete tra i pochi fortunati che non sono costretti ad essere alle prese con circostanze del genere, ecco la mia proposta. Si potrebbe usare il materiale come compito elettronico, vale a dire mandate un'email ai vostri alunni o studenti che contenga sia il collegamento per un dato video che un compito tipo guardate il video e fate il rispettivo esercizio. Poi mi mandate le vostre soluzioni entro venerdì prossimo. Oppure guardate il video e fatene un riassuntino. Siate preparati a presentarlo ai vostri compagni. Oppure anche annotatevi 5 espressioni utili e mandatemele per email entro venerdì prossimo. Oppure guardate il video e preparate 3 domande riguardo al contenuto. Va da sé che le possibilità per compiti individuali posti da voi secondo le esigenze delle vostre lezioni e dei vostri alunni sono innumerevoli. Non vorrei chiudere il mio discorso senza rimandare al sito omonimo Impariamo l'Italiano, che è collegato al blog. Al sito si può accedere cliccando su Grammatica o Lessico sulla pagina principale del blog. Anche questo sito è una fonte inesauribile di esercizi grammaticali e lessicali, tutti con soluzioni per tutti i livelli d'apprendimento. Poi ci sono anche giochi divertenti, come per esempio il famoso Chi vuole essere milionario, o diversi quiz culturali, letterari, eccetera. Nelle mie classi di italiano uso questo sito regolarmente come punto di riferimento per esercizi grammaticali. I miei alunni lo usano soprattutto per prepararsi alle verifiche. L'unico problema che si pone qua è veramente l'imbarazzo della scelta. Giunta quasi alla fine del discorso, ecco il mio giudizio conclusivo. 4 stelle glottodidattiche su 5, il che vuol dire utilizzabilità alta per classi o corsi di italiano. La detrazione della 5ª stella è dovuta alla mancanza di soluzioni per l'uso autodidattico. A questo punto non resta altro che ringraziarvi per la vostra attenzione. Adesso però, dopo tante parole da parte mia, tocca a voi. Se qualcuno di voi se la sente di aggiungere la sua opinione o magari addirittura delle sue idee su come si potrebbero utilizzare i video nelle lezioni di italiano, siete più che graditi. Sono già curiosa di leggere i vostri commenti e le vostre idee. Allora, presto e ciao a tutti!